Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici, bentornati, fantastico, meraviglioso, dopo tantissimo tempo, vi siamo mancati, ma tutta sta farsa che famo come al solito, insomma, finisce quello, ricomincia quell'altro, vabbè, che volete fare, noi siamo fatti così, noi dobbiamo chiudere una porta per aprirne altre due e poi vedere quello che succede, finché non ci rompiamo e la richiudiamo e poi un giorno non apriremo più niente, perché questo è il nostro destino. Da me Simone Pizzi vi do il benvenuto a questo nuovo format prodotto da me e da Alex, perché Alex mi darà una mano a produrre e realizzare questa trasmissione, perché ho deciso io. La faremo in collaborazione con i nostri carissimi amici Simone Cusella, Marco Gualdi, Carlo Burigana, Francesco Di Muro, Carmine Puccio Console, perché lo chiamiamo così, Carlo Sant'Agostino ogni tanto e Walter Sbano. Stasera con me in questo primo episodio c'è Alex Raccuglia, appunto. Ciao a tutti e grazie di essere voi qui e di essere io qui, anzi di avermi qui. Grazie. Grazie di essermi qui, che è bellissimo. Iniziamo molto bene, direi. È tipo un po' la metafora del ponte, che tanto non lo sanno, però per noi è importante, insomma. E c'è anche Carmine Puccio Console. No, io ero più che altro per la metafora del missile, quella proprio di Rocco Smitherson. Bentornati a tutti ragazzi, è stato breve ma intenso. Bentornato anche a te. Una piccolissima e brevissima descrizione di quello che sarà questo podcast. Diciamo che ogni volta che noi facciamo un passo in avanti cerchiamo di andare verso un'evoluzione. Questo primo episodio, anzi questo episodio zero, si intitola proprio Allarghiamo il campo, e come avete visto nella cover, insomma, c'è un campo da arare, insomma c'è il campo agricolo, perché non perché ci diamo alla come si chiama lì, all'agricoltura, insomma, ma perché comunque vogliamo cercare, insomma, di allargare il nostro campo d'azione, che può riguardare sicuramente i videogiochi dai quali proveniamo, ma andremo poi ad esplorare anche tutto il mondo dell'intrattenimento in generale, delle tecnologie collegate e via dicendo. Insomma, è inutile spiegare più di tanto, poi lo capirete strada facendo, insomma, questo Ludico Forum quello che dirà, e anzi spero, insomma, che abbiate poi la voglia magari di contribuire, dare suggerimenti e magari anche voler partecipare, insomma, come è successo anche in passato. Vi do soltanto alcuni riferimenti. Il gruppo Telegram, ragazzi, rimane lo stesso, quindi telegram.me/videoludica, mentre che il gruppo Facebook, pensate, incredibile veramente, rimane lo stesso anche quello, e quindi andate su facebook.com/groups-videoludica-it, quindi questo è un po' leggermente diverso. C'è anche il Telegram, ovviamente il canale Telegram, per sapere tutti gli aggiornamenti di, ovviamente della nostro network di Runtime, quindi telegram.me/runtimeradio. Se volete ovviamente partecipare, insomma, con il Patreon, basta andare su patreon.com/runtimeradio, oppure tramite PayPal fare un tantum, insomma, che insomma fa sempre piacere, www.paypal.me/runtimeradio. Quindi questi sono tutti i nostri riferimenti, poi piano piano, insomma, se cresceremo nei social cercheremo di aggiornarvi su quello che succede e come succede. Detto questo, iniziamo con questo primo episodio che diciamo nelle puntate regolari di Ludico Forum ognuno di noi porterà un argomento e tratterà, insomma, gli argomenti a secondo degli spunti che ci abbiamo, e poi ci saranno delle puntate più tematiche come la prossima puntata che andrà live venerdì prossimo, che sarà una puntata tematica, sarà il primo vero episodio, insomma, di questo forum. Oggi Alex ci farà un bel excursus, parleremo di green screen, blue screen, cioè oggi si tende a dire green screen, ma una volta si partiva col blue screen, una volta era blue screen, poi dopo ne parliamo di questa cosa, di come questa tecnologia è stata importante nel mondo del cinema e nei videogiochi, poi come è evoluta e perché oggi sta diventando quasi desueta, perché insomma poi alla fine, tra l'altro i software oramai lo fanno in tempo reale sta roba, cioè nel senso, una volta ci volevano tempi di elaborazione, maschere, bisognava togliere il verde dai capelli, insomma gran casino, ma poi ne parliamo. E Puccio invece ci presenterà un libro, perché quando parteciperà Puccio, se non parlerà di videogiochi, parlerà di libri o di giochi cartacei o chissà che cosa, o di pornografia. Anche di pornografia, esatto. Tra l'altro, notizia proprio di oggi, che insomma si sono incazzati con Pornhub, perché hanno detto tu devi controllare Pornhub, perché non è che, perché se io mi iscrivo e carico quella volta in cui mi sono grufolato una tizia e lei non è consenziente, tu non controlli, giustamente. Alla fine, insomma, Pornhub, fai la persona seria, insomma, giusto, no? Penso siete d'accordo con me. Sì, il problema è capire, è sempre questa cosa qua, se tu lasci aperte le porte al pubblico, poi chi è che controlla il pubblico? Ovviamente in questo caso tu sei responsabile, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E questo però adita un sacco di casini, tipo far fare questo lavoro a una macchina, che non è poi una, sempre una cosa molto, molto facile, molto gestibile. No, ma infatti il problema secondo me è che essendo come YouTube, cioè essendo stato aperto a tutti, quindi non ci sono più, che ne so, degli utenti certificati, le tra virgolette produzioni che mettono, che ne so, comunque contenuti parziali del loro catalogo, roba del genere, ma oggi io mi iscrivo e carico un contenuto e chi lo controlla quel contenuto? Cioè chi certifica se veramente le persone che stanno all'interno di quel video sono entrambe consenzienti? Insomma, questo è un problema che in effetti oggi abbiamo visto, no? Che insomma sta diventando abbastanza d'attualità. Però potrebbe essere figo un'intelligenza artificiale che quando vede qualcuno riconosce, capisce chi è, dalla faccia se è contento, riconosce chi è e ti telefona a casa: salve, abbiamo visto che lei è apparso in un pornazzo dove lo prende nel culo. abbiamo visto quei suoi schizzi sulla guancia, insomma. Vabbè, no, è Don Salvatore della parrocchia del Sacro Cuore, no, perché esatto, abbiamo un suo video. E siamo partiti subito col becerume, è fantastico questa cosa. Però ragazzi, parto io con una cosa che abbiamo fatto durante questi giorni nei nostri gruppi Telegram e Facebook e pagine Facebook e tutto annesso e connesso, dove io ho chiesto in generale alla gente, ai nostri amici, che quelli che ci seguono, gli ascoltatori, dirmi le 5 introduzioni videoludiche più belle della storia secondo loro. 5 non erano in ordine di classifica, cioè erano comunque in ordine sparso, dovevano essere 5. Poi fatta la somma di tutte queste 5 che sono state date, insomma, poi alla fine è uscito fuori un risultato. Devo dire la verità che il risultato è stato molto sparpagliato, forse era anche ovvio perché comunque il mondo del videogioco è talmente vasto, e considerando che questa cosa si faceva riferimento anche alla storia in generale, non è che negli ultimi anni abbiamo ristretto il campo, era una scelta soggettiva di ognuno di noi, e in effetti insomma questa votazione alla fine ha sparpagliato molto, insomma ha creato una lista lunghissima, tant'è che io ho fatto, diciamo così, una prima scrematura, che è quella di partire da tutti quei titoli che avevano ricevuto almeno 2 voti, quindi il voto nominale primo e poi dopo un altro voto da qualcun altro, e insomma il campo d'azione si è abbastanza ristretto, e sicuramente non è una sorpresa il risultato finale, soprattutto la quantità, insomma, di voti che ha ricevuto un determinato titolo o i titoli, perché io poi alla fine ho selezionato 3 titoli praticamente tra questi che sono stati scelti, e vabbè, non è una gran sorpresa, questo è sicuramente il primo dato. Il primo in classifica è ovviamente cioè un gioco per Amiga 500 che tutti ricorderemo, ed è Another World, che con Alex avevamo detto questo vince a mani basse, e infatti è stato così, Alex, perché ha ricevuto il doppio di tutti gli altri voti, cioè proprio messi insieme. Esatto, quindi cioè, nel senso, praticamente quasi tutti insomma hanno citato Another World. Perché Another World ci è rimasto così impresso, Alex? Allora, io credo che sia per il fatto che forse è stato il primo gioco in assoluto che abbia avuto una vocazione del tipo cinematografico. Cioè, questa introduzione, se l'avessimo vista in un film di fantascienza, sarebbe stato il film di fantascienza di serie B, quelli che stanno su AXN, avete presente quei canali. Nel videogioco è la prima volta che si vedeva una roba del genere. Poi anche dal punto di vista tecnico, il fatto di utilizzare i vettori bidimensionali per risparmiare spazio, per farci stare molte più animazioni, e non oso pensare come abbiano fatto a fare tutte quelle animazioni in maniera più o meno automatica, ha fatto sì che questa introduzione fosse veramente qualcosa di assolutamente diverso che ti ha catapultato dentro in questo gioco. E poi a livello di giocabilità aveva tutti i suoi limiti, eccetera eccetera eccetera, però credo che sia stato il primo è stato una sorta di spartiacque per tutto quanto. Infatti io mi ricordo che lo caricavo un sacco di volte solo per riguardare solo l'introduzione. Vedere l'introduzione, certo, sì, no, è vero. Puccio? Io non ho esattamente un rapporto fantastico con quel gioco, nel senso che avevo cominciato a crepare a ripetizione la prima volta che l'ho lanciato, perché non sapevo si potesse ammazzare la pianta carnivora che trovi all'inizio e io quindi cercavo di saltarla come un imbecille. Però in effetti andando a memoria è stato forse una delle intro che, se ci devo pensare, è una di quelle che mi ricordo di più. Io onestamente avevo votato per la intro di Metal Gear Solid. Vabbè, poi ci arriviamo. Quella che immagino che sia la seconda. Adesso fermiamoci su Another World. Ma non quello che ho votato io. Però in realtà Another World, io qualche giorno fa ho provato Paper Beast, che è stato fatto dallo stesso sviluppatore, che è uscito per Pixel Rift, e ha mantenuto quell'ottica lì. Cioè ha molto di cinematografico, ha un intro, dire anche il contesto in cui ti andrai a muovere. È uscito di recente in edizione rimasterizzata su Switch, me lo sarei ricomprato volentieri. Vi dico la verità, ho provato una demo, ma mi sono reso conto che oggi siamo disallenati a giocare a un gioco come Another World. Però al di là del gioco, comunque rimaniamo sempre sull'intro, no? Che poi alla fine, come dice Alex, io la prima volta che l'ho visto sono rimasto, cioè i cambi di inquadratura, movimenti, la macchina che arriva. La macchina che arriva sgommando, i fulmini, lui che entra dentro, cioè c'è tutta una sequenza, capito, che fino ad allora in quel modo tu non l'avevi mai vista, anche se su Amiga, Amiga 500, 1200, 2000, roba del genere, anche con Paint Shop Pro, no, si facevano con Deluxe Paint, scusate, si facevano le animazioni frame per frame, no? Però quanto costavano a livello di memoria, di spazio, di tempi di caricamento? Questi avevano inventato sta tecnica vettoriale che era fantastica. Tra l'altro io ricordo che c'era un software per Amiga che poi fu reso pubblico, che non so se era lo stesso, se era, però comunque ti permetteva di fare animazioni vettoriali. Quindi tu praticamente andavi avanti di keyframe fino al piano piano, andavi e lui dicevi questo vettore si sposta da qua a qua, e poi il resto più o meno lo faceva il software, e faceva queste animazioni che potevano essere virtualmente lunghissime, perché alla fine erano solo numeri, cioè fondamentalmente. Aiutatemi a capire se sto dicendo una cazzata. Quel tipo di animazione ricordava tantissimo. Stai sicuramente dicendo sì, una cazzata. Probabilmente sapete che io e il cinema abbiamo litigato da bambini. sì. Quello che ricordo io, trovavo sempre questa somiglianza tra le animazioni di quel prodotto e il rotoscope che per esempio usava la Filmation per fare alcuni cartoni animati. Non so perché, ma quelle animazioni mi sono sempre sembrate così tanto simili, anche se in realtà erano proprio frutto di un processo completamente diverso. Però l'idea di fluidità che mi dava quell'animazione lì mi ricordava quel tipo di cartoni animati. Il rotoscoping, diciamo che la Delfin la usava poi sui sprite di Perso, cioè per flashback è tutto in rotoscoping. Quindi cioè alla fine, no Alex, dico... Sì. Io credo che l'abbiano fatto. Abbiano fatto una serie di tecniche miste. E sì, un po' come con Prince of Persia, abbiano fatto delle riprese dal vero che poi hanno ricalcato digitalmente, però utilizzando più o meno, i vettori. Sì. Bene, al secondo posto c'è un altro risultato abbastanza, anche se nettamente inferiore come numero di votazioni, però insomma era abbastanza scontato, che è Metal Gear Solid per PlayStation 1, anche se Puccio aveva votato il 5, però vabbè. Mi pare che hai votato il 5, però indipendentemente quello che abbiamo votato, in effetti anche questo mi sento di dire, Alex, che era un risultato abbastanza prevedibile tutto sommato, no? Sì, credo di sì. Ecco, io credo che, scusa, c'è un rientro comunque di qualche tipo. Sì, sicuramente sono io. Voi fate finta che non ce l'avete. Ok, no, perché faccio fatica a concentrarmi. Allora, credo che Metal Gear Solid sia stato per la PlayStation quello che è stato Another World per l'Amiga, perché anche in quel caso c'è stata questa introduzione, ovviamente con tutti i crismi del caso, perché era parlata, eccetera, eccetera, e aveva un approccio molto cinematografico per due motivi. Un motivo è che osava e utilizzava le inquadrature fuori bolla, che è una cosa anche abbastanza atipica, che però di solito si utilizza a livello cinematografico, a livello di regia, quando si vuol dare l'idea di qualcosa di claustrofobico, per cui non solo l'inquadratura è stretta e raccolta sulla persona, lui era lì che era dentro una sorta di siluro, però il fatto di renderla fuori bolla lo rende ancora più rende la cosa ancora più, come si dice, fastidiosa per l'utente, per lo spettatore, di conseguenza trasmette un po' il fastidio del personaggio. E oltretutto il fatto che ogni volta che entrava qualche personaggio a parlare arrivava fuori il nome del doppiatore, dell'attore che aveva dato la voce, e questo trasmetteva molto di più il concetto di cinema videogioco per certi versi, che è l'obiettivo finale, ma senza neanche troppo Kojima, velato, certo, di Kojima. Per cui credo di sì. C'era tutta l'intro, tutta l'introduzione, che c'erano i titoli di testa che non si erano, credo, mai visti. Esatto. Proprio per questo, ripeto, sto guardando un film. E poi è stato fondamentale. Mentre l'Amiga era comunque una cosa da nerd, ce l'avevamo noi che eravamo i ragazzi del computer, passami il termine tra virgolette, e la PlayStation ce l'hanno avuta tutti. Ed è la prima volta che la maggior parte vedeva un videogioco che, oddio, sembra un film, porco due. Anche se poi questa classifica che abbiamo votato, l'abbiamo votata noi che abbiamo avuto anche l'Amiga, comunque Metal Gear Solid è stato per certi versi anche in quel caso uno spartiacque, perché anche il ragazzetto figo ce l'aveva, oh porco due, è troppo un film questa cosa, e di conseguenza era diventato una sorta di, sì, era proprio era così era lì. Proprio così parlava, assolutamente così. Era quella roba lì, però per tutti anni, quanti Alex. Ma no, vabbè, non è che c'era tutti i torti, però il bello è che non è che cambiavano voce, c'erano tutti la stessa voce. Soprattutto che qui in Lombardia parlavo tipo ambedi. Cioè. Certo, come no? Soprattutto negli anni 80-90, immagino. Erano lazio-milanesi. Puccio. Io, oltre a quello che avete già detto voi, la cosa che ricordo con molta precisione è quella sensazione che ti catapultava nel gioco, però già in media stress, cioè era già successo qualcosa e ti avevano sbattuto là a risolverla, non sì. Sapevi niente, non sapevi chi era lui, non sapeva che cos'era Shadow Moses, rigiocandolo dopo ovviamente poi tutto lo accettavi, però ti dava tantissime informazioni sul gioco direttamente nella fase introduttiva. Aveva un minimo di interazione, perché in realtà se muovevi gli analogici del gioco, o meglio all'epoca non c'era ancora l'analogico, se muovevi i tasti direzionali potevi cambiare l'inquadratura, quindi guardare anche le cose da una prospettiva lievemente diversa rispetto a quello che ti imponeva il gioco. Però in effetti quello che ricordo pure io è questa sensazione di essere ai titoli di testa di un film. Poi ovviamente io all'epoca Kojima lo conoscevo pochissimo, sapevo qualcosa che aveva fatto per MSX. Tutto quello che avrebbe fatto Metal dopo, Gear sempre. È sempre Metal Gear. E già sapevi qualcosa. No, ha fatto anche un'avventura grafica. No, sapevo qualcosa, perché a me Metal Gear per MSX, avendolo avuto per un po', me l'ero giocato e mi era piaciuto. Mi ricordavo il nome che c'era sulla cartuccia, perché è stato uno dei pochi che il nome sui titoli di testa del gioco l'ha avuto. E quando poi me lo sono ritrovato davanti per PlayStation 1, ho cominciato a cogliere qualcosa che poi si sarebbe rivelato più avanti. Sì, che poi lui comunque già su MSX c'aveva sta cosa dei titoli di testa, sì, quindi c'è, cioè, nel senso, comunque bene o male. E poi lui fece pure quell'avventura grafica, la giapponese, che era praticamente una copia di Blade Runner, poi fondamentalmente, non so se vi ricordate. E poi c'erano i due titoli dei Metal Gear precedenti, che insomma, alla fine, forse. E se esistendo quelli nel gioco per PS1, partiva dal presupposto che tu già conoscevi il personaggio, l'ambientazione. In realtà io non sapevo proprio niente, cioè, insomma. No, vabbè, in realtà se non li avevi giocati prima era completamente accessibile lo stesso. No, infatti cambiava niente, sì. No, l'unica cosa è che poi dopo è che ovviamente ha scatenato una lore che non finisce mai, che è andata avanti per 15 anni e che io non ci ho mai capito niente, perché veramente è fuori di testa. Cioè è tra il trash movie fantascientifico americano e la dinastia giapponese, insomma. Quindi c'è no, storia. In realtà è un enorme gioco, un enorme film di spionaggio dove c'è gente che nella migliore delle ipotesi fa il quadruplo gioco. Quindi fino a quando tieni conto di tutte i vari legami, le associazioni, eccetera, eccetera, ti perdi. Bene, andiamo. Molto giapponese, mm? Prego, questa roba è molto giapponese, cioè non è ancora potenza, è quella roba lì alla fin fine. Ma lui in realtà è estremamente giapponese, però imbevuto di cultura cinematografica occidentale. Sì, diciamo che ci sono tantissimo i film di spionaggio. Il cinema è occidentale, è la storia dei personaggi che è giapponese. Questi personaggi che non muoiono mai, che ogni tanto ritornano, che poi rimuoiono, poi ritornano. Che hanno due o tre identità. Quello è il figlio di quell'altro, tu sei il clone di tuo nonno, insomma, via dicendo. Io no. Io a quel punto a canno, cioè sì, nel senso lasciamo. Effettivamente appropriato, sei il clone di tuo nonno. Esatto. Vabbè. E al terzo posto invece, anche questo, diciamo, al limite, perché insomma ci potevano anche essere altre scelte, però ci sta, perché anche lì, sempre in un'epoca PlayStation 1, quando cominciamo a vedere queste presentazioni così elaborate che probabilmente fino allora non avevamo mai visto, c'è Final Fantasy VII. Che probabilmente è anche un po' influenzato dall'affezione che la gente ha per questo gioco, un po' perché effettivamente io la prima volta che ho visto l'introduzione da casa di un amico mio ho detto voglio giocare a sto gioco, poi dopo l'ho giocato anni dopo, però Alex, guarda, ti dirò, io ci avevo pensato un po' se infilarla o non infilarla quella presentazione, perché sì, anche quella è stata veramente un momento topico, perché invece quella era assolutamente la cosa più giapponese che si era mai vista. Io personalmente non l'ho trovata così dirompente, non è infatti nella mia lista dei cinque voti, mentre i primi due sì. Però sì, posso capirlo. Final Fantasy VII è stato un momento, anche quello, ovviamente tutti hanno giocato a un GDPR. Sì, un GDPR. Un DPCM. DPCM è anche quello, sì. Un Japan JRPG, scusatemi. Oggi è giornata. Non ce la faccio più stare chiuso in casa. Devo uscire, scusatemi. Nessuno aveva mai giocato, nessuno ha giocato poi a GDPR dopo, È stato quel momento lì, ma perché? Perché poi la storia era carina, eccetera, eccetera, eccetera. E quell'introduzione cyberpunk risultava essere molto poco comune. E la cosa bella era che poi l'animazione si fondeva, perché finiva l'animazione e da lì iniziava il gioco senza soluzione di continuità. Per cui era molto coinvolgente per certi versi. Io personalmente l'ho rivalutata in maniera peggiore dopo, con gli anni, perché devo dire che non mi ha lasciato l'amore, non mi ha lasciato quell'entusiasmo, quell'energia che mi hanno lasciato altre cose. Nella mia lista c'è un titolo per PlayStation 1, se non sbaglio, no, anzi due, visto che c'è anche Metal Gear Solid, per cui non Non è una delle mie preferite, ma posso capire che sia parte integrante dell'ondata dei videogiochi che è arrivata con la PlayStation. Cioè, vi ricordate che a un certo punto PlayStation era diventato sinonimo di videogioco? Oh, sto a giocare a PlayStation, porco due. Eh sì, era come quando stai a ascoltare il lettore MP3, era sto a ascoltare iPod, insomma. Esatto, cosa, sì. Cioè. Sto giocando con Nintendo. Bene, allora prima di chiudere questo capitolo volevo sapere invece quali. Allora io vi dico quali sono stati i miei, cioè nel senso vai, così. Con quella classifica è questa, cioè nel senso indiscutibile e via dicendo. Però a questo punto togliamoci pure un po' la curiosità. Io ho votato il primo Metal Gear Solid per PlayStation 1, ovviamente. Io sono banale nei miei voti, devo dire la verità, tranne uno secondo me. Another World, ovviamente. Mass Effect 2, perché secondo me l'introduzione di Mass Effect 2, cioè secondo me era bellissima la prima, però la seconda c'aveva qualcosa in più, ovviamente. Poi ho votato una cosa che devo dire, pensavo di averla votata solo io, e invece ci ha avuto ben tre voti addirittura, pensate, tutto sommato si è qualificata anche al secondo turno, che è It Came From The Desert della Cinemaware, perché c'aveva quella fantastica introduzione all'inizio, che se c'avevi l'espansione Omega era pure parlata. Con l'asteroide che parla e che cade, il tizio che parla e racconta, insomma, vabbè, ma la Cinemaware, ragazzi, erano, cioè, secondo me i giochi della Cinemaware erano solo quello, cioè era questo aspetto, questo film cinematografico, questa bellissima grafica che ci avevano, poi dopo magari i giochi di per sé erano un po' così. E The Dig, chiaramente, perché secondo me tutta la parte introduttiva di The Dig è veramente un film, cioè nel senso, è pure lunga poi tra l'altro. Sì, è vero, è vero, storia. È vero, è vero. Sì. Infatti quando tu mi hai detto The Dig, ho detto, cacchio, è vero, The Dig, me la stavo dimenticando. Però adesso voglio sapere invece i tuoi, Carmine. The Dig me l'ho completamente dimenticato pure io, comunque me l'avete citato. Vabbè, vabbè. E non puoi cambiare, prima... non puoi. Perché no, assolutamente. No, che bella maglietta! Uri. Kevin Belson Signature Edition, ragazzi. Io non l'ho vista, però. No, vabbè, era solo il logo Uli, che poi in realtà è anche una marca. Vabbè, ti devi vedere una serie TV che poi ti forniremo in legale più avanti. Sì, no, ma c'è Sky, le videocassette io a Monterotondo. Le cassette, bravo, bravo, perfetto. No, allora io sono andato con, in realtà credo l'intro che mi ha colpito di più nella vita sta a metà tra Metal Gear Solid Ground Zeroes e Metal Gear Solid 5 vero e proprio, perché poi alla fine il finale di Ground Zero, che era questo minigioco introduttivo, che poi il prologo, ma ancora tanto, è il prologo, è tremenda, cioè ti distrugge completamente qualsiasi senso di speranza, di buon umore, di collegamento con le serie precedenti, perché succede una cosa assolutamente immaginabile, cioè sostanzialmente vedi uno Snake che perde perché viene distrutta la sua organizzazione per salvare chi si è preposto. È girato cinematograficamente benissimo, è tutto in piano sequenza, recitato, è tutto in piano sequenza, soprattutto è recitato da Dio. L'attore che hanno usato per fare il personaggio è stato eccezionale. Tra l'altro ti lascia veramente senza fiato, perché personaggi anche abbastanza comedi, come i due ragazzini sudamericani, prendono una piega completamente diversa. Insomma, credo che sia la cosa che mi ha martellato di più il cervello nella mia vita. Poi ho messo Final Fantasy VII, pure io, più per una questione, credo, di affetto che per l'effetto che mi ha fatto quando l'ho visto, perché sì, bello, poi il fatto che stacca direttamente da questa enorme città steampunk che pian piano si restringe, vedi il vicolo, vedi il personaggio e poi inizi a giocare. Bello da vedere, però non credo che sia legato più ai bei ricordi dall'epoca che al resto. Poi vabbè, sono andato con... mi è piaciuta tantissimo la parte introduttiva di Mario Galaxy per Switch, perché non è quello che ti aspetti da un gioco di Mario, cioè vedi Mario che viene sconfitto da Bowser, vedi che fa una caduta che sembra quasi una morte, si risveglia in una specie di al di là, poi non mi ricordo quali altre te avevo messo. Ma comunque, diciamo, le mie tre principali sono qua. Ah, no, scusate, Zelda, A Link to the Past, che continuo a pensare sia lo Zelda con l'introduzione più scarna graficamente ma più coinvolgente quando ci giochi la prima volta. Bene, bene, bene, bene. Alex, a suo punto di le tue. Lo siamo, allora, giocato, Alex. Sì, se adesso mi ricordassi, perché non vorrei fare una gaffe, per questo riprendo la chat in cui ci siamo, te l'ho dette. Pensa, io ne sono appena uscito, ce l'avevo in mano, però ho detto vabbè, se lo ricorderà, no? Cioè, nel senso... Allora, aspetta. Ok, sì. Allora, in ordine assolutamente sparso, Space Ace al bar. Beh, ci sta, non sei l'unico ad averlo votato. Oh, che bello, perché è il primo gioco laser che ho visto. Ho visto prima quello di Dragon Slayer, e quando l'ho visto, cioè, io credo di, magari no, però è come se mi fossi inginocchiato, cioè cadendo sulle ginocchia dicendo: com'è possibile questa cosa? Cioè, allora non sapevo che esistevano i laser disc, eccetera, eccetera. No, che tutto valeva per tutti, esatto, questo, sì, penso, sì. Esatto. Poi Another World, ovviamente, quella, Metal Gear Solid. Poi adesso due, secondo me, mezzi outsider, che sono Agony per Amiga, che non aveva l'introduzione essenzialmente, però è stato il primo gioco che ha utilizzato una colonna sonora malinconica come introduzione. C'era solo l'intro solo di piano e un arco, perché c'erano quattro tracce audio e soltanto questa schermata dove c'era l'albero in fiamme, se non sbaglio. Questo secondo me è stato un momento di svolta per me, perché per la prima volta ho visto un gioco che voleva, cioè non era solo azione, ma c'era anche un ragionamento dal punto di vista estetico e stilistico. E infine aspetta che la trovo dove è finita. Soul Edge per PlayStation, perché che è stata votata anche questa, sì. Io devo dire era la mia quinta. Oh, che bello. L'ho ritrovata ora. Soul Edge ecco, questo è un'altra cosa che secondo me, perché è stata dirompente per me, perché per la prima volta è stato utilizzato il linguaggio del videoclip, anzi non tanto del videoclip, della motion graphics videoclip, come introduzione di un videogioco, perché l'introduzione era completamente calcolata, non era renderizzata in tempo reale, però utilizzava il linguaggio della motion graphics per presentare i personaggi, la storia, oltre ad avere la canzone che è fighissima secondo me, e c'era questo filmatino che dura 1:20 che se lo vediamo oggi veramente lo faresti veramente col braccio dietro la schiena con la PlayStation 3, con Unreal Engine, per dire. Però allora è stato un momento di svolta, perché era proprio anche quello, vedete, una grande forza dei giapponesi è stata quella di una forte impronta stilistica, come dire, cioè questa roba, c'era una personalità che debordava quello che erano i confini di allora del videogioco. A me per questo è stato bellissimo. Gli altri non vedo. Sì, infatti è stato abbastanza votato Soul Edge, devo dire che a Roma si direbbe Soul Edge. Soul Edge, però devo dire che è stato sì, comunque ha ricevuto diversi voti, insomma. No, mi era venuto in mente che quella cosa che hai notato tu in Soul Edge, quell'aria, in realtà forse si vede tantissimo nell'introduzione di Final Fantasy VIII, che però non si ricorda nessuno, perché tutti ci hanno così tanto ficcata in testa quella di Final Fantasy VII, che quella dell'VIII comunque era bella, era dinamica, aveva un accompagnamento musicale fatto benissimo, non se la ricorda più nessuno. Io ti dirò, anche credo di averla vista una volta sola, però, sì, l'introduzione, e non me la ricordo. Non, adesso che me l'hai detto me la vado a cercare, però. No, ma sai che cos'è? Che secondo me quel gioco è talmente orribile, se l'hai giocato, che tendi a rimuovere tu. Va bene ragazzi, io direi che innanzitutto faccio una piccola appendice, perché sono dimenticato all'inizio, dato che questa è la prima puntata e vabbè, le cose poi me le memorizzerò col passare del tempo. Gli assets grafici ovviamente di Ludico Forum sono di Alex, così come gli assets audio sono di Carlo Burigana. In questo specifico episodio che stiamo registrando e che uscirà per quanto riguarda noi venerdì, e quindi insomma quando voi la sentite, non so se mi sarà arrivata la sigla, probabilmente sì, ma se non dovesse essere arrivata sicuramente avete sentito la cosa generica, ma sappiate insomma che questo è un progetto in corso d'opera. Potevi aspettare? No, perché c'avevamo fretta. Va bene, allora detto questo, dalle intro che comunque sono parzialmente collegate, io mi sposterei su quello che è il discorso invece legato ad Alex, che è un discorso che anche questo un po' per quanto riguarda molti di noi parte dai videogiochi, perché secondo me la scomposizione dell'immagine e la ricomposizione magari su scenari sfondali diversi e roba del genere, magari per la prima volta l'hanno visti sui making of dei videogiochi, tipo insomma tutti quei giochi in full motion video che avevano gli scenari pre-renderizzati o poi dopo successivamente magari migliorando, insomma la questione del blue screen / green screen, che ha fatto parte della storia sia del cinema che della televisione che del mondo dei videogiochi, e che so che piano piano sta cosa sta cominciando ad andare verso altre frontiere, visto insomma soprattutto quello che stanno facendo con il Mandaloriano, no? Quindi c'è tutto quelle diciamo, non c'è forse probabilmente neanche più bisogno, no, di dover applicare uno sfondo neutro per poi dopo riaggiungerlo successivamente. Allora, se un bel excursus da parte di Alex, e poi se in questo excursus mi levi un attimo sta curiosità del perché negli anni 90, gli anni 80 si usava il blu e poi a un certo punto si è usato il verde, perché okay, è una cosa che non allora, cambiano le mode. Te lo dico intanto che certo, te lo racconto, anche perché è una delle topiche interessanti. La domanda che ti faccio è: quanti minuti ho per raccontare questa cosa? 5, 20, 2 ore? No, facciamo una via di mezzo tra 5 e 20, dai. Ok, allora, tutto nasce negli anni 60 con un brevetto della Disney, perché l'idea originaria sempre nel cinema, nel compositing, è stata quella di riprendere degli soggetti in occasioni diverse per poi compositarli insieme. Un esempio è, che ne so, fare una ripresa di una miniatura in cui magari ha un paesaggio che non può ricostruire fisicamente perché costerebbe troppi soldi. Allora fai la ripresa della miniatura e poi riprendi una persona, il tuo personaggio, in modo tale che tu puoi infilare questo personaggio dentro la miniatura. Il problema è, dato il fatto che se tu fai una ripresa a una persona, riprendi sia la persona ma tutto quello che sta dietro, anche se la riprendi su una parete nera, comunque avrai sempre questo oggetto nero che è un po' difficile da ritagliare. Come si è avviato? Allora, negli anni 60 la Disney brevetta una luce particolare che era di colore giallo, che aveva, grazie alla stimolazione chimica di un gas, elettrochimica di un gas, questo gas le metteva un'unica forma d'onda di un unico colore intendente al giallo, che quando illuminava lo sfondo lo faceva diventare assolutamente uniforme, ma veramente uniforme, senza praticamente ombre. Questa cosa qui, sfruttando un po' di accrocchi che sono sia ottici che chimici, consentiva di avere una sorta, una quello che viene chiamato matte, cioè un fotogramma in cui c'è tutto bianco quello che è il soggetto e tutto nero quello che è lo sfondo. In questo modo, utilizzando sia la matte positiva, cioè bianco su sfondo nero e nero l'esatto contrario, nero su sfondo bianco, è possibile creare in compositing ottico è possibile creare in compositing ottico dei soggetti in modo tale da compositare qualcosa che è in primo piano con qualcosa che è sullo sfondo. Tutto questo è veramente fatto assolutamente in ottica, ed è il motivo per cui i vecchi film, insomma, si vedeva il bordo di un certo colore, o bordo nero, o bordo azzurro attorno a una persona. Dicevo, la Disney sviluppa questa lampada. Peggio nei primi videogiochi, quando le risoluzioni erano proprio... Sì, il principio è sempre lo stesso. Insomma. Dicevo, sviluppa questa lampada che è costata loro tipo $50,000 dell'epoca. E l'hanno utilizzata... Madonna. Esatto. E non l'hanno mai venduta, neanche noleggiata. Hanno detto, dobbiamo avercela solo noi. Allora la Disney era un colosso e aveva i soldi infiniti. Come oggi, ma... Adesso no. Adesso c'hanno i soldi infiniti, però non li spendono, cioè li spendono magari nel marketing. Allora, nel senso, non avevano problemi per fare Mary Poppins, utilizzano questa cosa qua insomma, riescono a creare quella scena spettacolare dove c'è Mary Poppins e Dick Van Dyke che ballano nel mondo di cartoni animati. In seguito si utilizza, che poi diventerà un must dalla Disney sta cosa, assolutamente sì, però anni. Neanche troppo, perché comunque avevo anche paura di romperla sta roba qua, cioè, ne hanno costruito un solo esemplare. Okay. $50,000 degli anni 60, chissà quanto costava. Allora sarebbe fare una proporzione, certo. Esatto. Il principio di utilizzare un colore unico e neutro ha portato ad utilizzare il blu a un certo punto, perché era quello che per certi versi, illuminando con la luce ultravioletta, si riusciva ad ottenere un colore uniforme dietro, e si è scelto di utilizzare il blu prima di tutto perché era uno dei tre colori primari, rosso, verde, blu, perché la pellicola Technicolor era praticamente costituita da tre strati di tre colori differenti, per cui si poteva andare ad agire esattamente sulla singola componente cromatica del blu. E si è scelto di utilizzare il blu perché è il colore più lontano dalla nostra pelle, dal colore della nostra pelle, dato che di solito si faceva il blue screen per separare un soggetto, per una persona, dallo sfondo. E il blu era il più comodo perché era quello che era più lontano dal colore della pelle, che diciamo che è rossastro. Il rosso si è usato pochissimo, per dire, una delle ultime volte che è stato usato per girare le sequenze subacquee con in miniatura di Titanic, perché il rosso era molto diverso dal colore del mare, per cui era molto facile, certo, separare. Sì, c'era il controbilanciamento, è chiaro, anche perché poi il blu e il rosso sono negativi, quindi non proprio, però va bene. Sì, diciamo, insomma, sono un po' negativi, sì. Sì, comunque meno, era più lontano, dal blu che il verde. Quando si è iniziato a lavorare in digitale, il blu è risultato essere il colore più difficile di tutti, perché in tutte le macchine fotografiche, telecamere, in qualsiasi strumento di ripresa, il blu è il colore più rumoroso e disturbato, e in più anche quello che incide meno sulla luminosità. Cioè, la nostra immagine, noi pensiamo, è formata da rosso, verde, blu, ma non è formata rosso, verde, blu in quantità uguali, perché il verde costituisce il 55% della luminosità, il blu il 18% e il rosso il restante. E utilizzare il blu è sempre stato un casino, perché rumore, disturbi, eccetera eccetera eccetera. Dato che i sensori delle macchine, delle telecamere, delle cineprese digitali sono fatti tutti allo stesso modo, per cui ogni gruppo di 4 pixel ci sono 2 pixel verdi, uno blu e uno rosso, hanno detto usiamo il verde, che è il colore più facile da eliminare, del motivo per cui oggi si usa il green screen invece del blue screen. Questo è interessante, vedi, non lo sapevo. Bene bene, grazie. Esatto, questo si è andato avanti così per tutto sto tempo, perché a questo punto utilizzando il green screen e algoritmi di chroma key, si chiama chroma key, vuol dire, cioè, bucare un colore, sempre più raffinati, si è arrivati a livelli per cui con una buona definizione si riesce a fare un po' tutto. Il grosso problema è stato, si è visto questa cosa soprattutto nelle produzioni che avevano budget molto, molto sensato, cioè i film con i soldi, è che il green screen ti limita a fare riprese in un posto dove c'è uno sfondo verde, che sia uno studio, il oppure verde, riportarti, certo, un verde dietro, ed è sempre un po' un casino. Allora, siccome i programmi per fare rotoscoping, cioè per fare ritaglio a mano dei fotogrammi, sono diventati sempre più raffinati e si poteva interagire con essi, a un certo punto hanno detto, per le produzioni veramente ricche, hanno detto, invece sta lì a fare riprese col green, che diciamo un sacco di tempo, uno sbattimento, riprendiamo le persone così come sono, e poi prendiamo una batteria di vietnamiti, di indiani, li paghiamo no veramente, cioè ci credo, se tu guardi gli annunci ci sono degli studi, mi pare l'abbiano fatto così, sì ci sono degli studi di indiani, ricevo spesso queste, cioè, noi facciamo rotoscoping, ti fanno vedere la foto di un capannone dove ci sono dentro 200 persone che fanno solo quello. E per cui, nel senso, tu gli dai una sequenza e loro ci pensano loro a fare la separazione. L'esempio più lampante è stato nei Pirati dei Caraibi, credo il 2, il 2 e il 3 che li hanno girati insieme, dove il responsabile degli effetti speciali, John Knoll, che tra l'altro è coautore di Photoshop, chiusa parentesi, ha detto è molto più figo lavorare in questo modo, perché così non hai problemi di, cioè, non hai problemi di luce spuria, cioè non è che c'è una persona che è illuminata in modo sbagliato, perché è proprio lì, in quel posto lì, in quella roba lì, per cui l'illuminazione è quella corretta, quella giusta, e riceve dallo sfondo, anche da dietro, dal cielo, la giusta colorazione, per cui i colori sono talmente perfetti che vale la pena di spendere, di pagare tonnellate di vietnamiti thailandesi che fanno sta roba qui per avere questo risultato. A suo tempo il grosso problema ovviamente erano i capelli, al punto tale che avevano sviluppato dei programmi di simulazione dei capelli, per cui andavano a prendere i capelli, li rasavano digitalmente tutti e poi glieli aggiungevano in digitale. Era molto più comodo fare quello che ritagliare i capelli che svolazzavano sul vento. Il penultimo passaggio oggi è quello degli studi virtuali, per cui invece di avere uno sfondo verde si ha uno sfondo che è un immenso monitor, un televisore gigantesco che proietta quello che dovrebbe essere lo sfondo, ma in modo tale da essere sincronizzato con i movimenti di camera. Viene utilizzato una versione proprietaria di Unreal Engine che, sulla base della posizione della camera, focale, eccetera eccetera eccetera, calcola in tempo reale quello che la camera riprenderebbe sulla posizione di questo schermo che c'è dietro, lo proietta, se fosse fisicamente nel posto. Esatto, certo. questo ci dà la possibilità di muovere la camera, di spostarsi, perché il principio è lo stesso della retroproiezione, solo che in questo caso la retroproiezione è interattiva, perché quello che viene visualizzato è un mondo virtuale che reagisce agli spostamenti della camera e anche alle distorsioni prospettiche, e di conseguenza questo sfondo virtuale, che essendo luminoso non è proiettato ma proprio un monitor vero e proprio, illumina il soggetto e consente di bilanciare alla perfezione colori e luminosità. Il passo successivo, che è quello su cui si sta lavorando a vari ambiti, è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, selezionato un soggetto, capisca effettivamente che quel soggetto è il soggetto e lo separi dallo sfondo. Per farvi capire, stiamo tutti usando Skype, ognuno di noi può usare il filtro, quello di cambia lo sfondo. Ecco, quel filtro lì è molto semplice, si basa sul fatto che riconosce che c'è una faccia e sulla base della faccia controlla tutti i contorni del corpo, e allora dice questa roba qua è il primo piano, il resto è sfondo. Questo è questo potrebbe essere, diciamo, il futuro. L'ultima versione di After Effects, che è un programma disponibile per tutti, costa 40 euro al mese per dire, 65 se si prende tutta la suite, ha uno strumento del genere che usa l'intelligenza artificiale per fare la separazione e la fa decisamente bene. Addirittura ti dirò che ci sono dei software che semi professionali di editing, tipo quelli della Magix o via dicendo, che poi sono quelli che hanno acquisito anche Sony Vegas, non so se tu ti ricordi, no? Che hanno praticamente anche loro delle routine all'interno basate sull'intelligenza artificiale, loro chiamano le maschere in movimento, no? Cioè, nel senso, comunque tu gli dici la figura, lui costruisce la maschera e ricostruisce il movimento. Certo, non saranno perfetti, voglio dire, come possono essere magari quelli di After Effects, che è comunque un applicativo industriale, però insomma devo dire che questo tipo di tecnologia oggi comincia ad essere distribuita anche magari alla portata delle persone, così anche per gli amatori, no? Sì, sì, ovviamente i modelli di separazione si basano su quelle che mi hanno chiamate GANN, cioè reti neurali convolutive, come si chiamano? Generative e avversarie, cioè insomma adesso non me la ricordo bene la traduzione in italiano, che ovviamente... Pare sia avversativa. Avversativa, sì, ma concorrenti. Vabbè, sì. Vabbè, insomma, e... Ovviamente questi modelli necessitano di miliardi, miliardi, miliardi di informazioni per essere... Certo. Per cui nel senso, arriveremo pian piano a degli strumenti sempre più raffinati, un po' come vediamo adesso il face swap. Ok, adesso come adesso funzionicchia, va abbastanza bene, il ficcare la tua faccia sul corpo di una pornostar, anche quello per adesso è una cosa che funziona a bassa risoluzione, man mano che i modelli diventano più... più raffinati e la potenza di calcolo aumentano, diventerà sempre più difficile distinguere da oggetti reali. Questo è un pochettino quello che succederà da qui a nei prossimi 20 anni, anche 10. Senti, io ho un paio di domande, poi dopo vediamo se Puccio anche c'ha magari delle domande. La prima domanda è relativa un po' a quest'ultima, a questa penultima cosa che tu hai detto, cioè praticamente all'utilizzo di grossi studio con dei display dietro che comunque alla fine visualizzano quello che è il background, no? E questa cosa si usava, non so se tu ti ricordi, nel cinema in bianco e nero, soprattutto nelle scene in macchina. Sì. No? Cioè la scena in macchina c'erano i due che guidavano e dietro c'era sta pre-ripresa fatta da qualcun altro che faceva vedere la strada praticamente dietro. E nella tecnologia a colori questa cosa non si è praticamente quasi più usata. Perché cioè anche all'inizio degli anni 90 hanno usato roba del genere. Sì, però quello che ho sempre notato io è che usare un display come un televisore o un pannello di questo genere ha sempre creato dei problemi dal punto di vista del cromatico, insomma, voglio dire, comunque le differenze, cioè si vedeva che dietro era un televisore, voglio dire, no? Questo voglio dire, no? E oggi tra OLED o tecnologie similari praticamente si è arrivati a un livello tale che oggi l'occhio umano non riesce più a distinguere che quello dietro è un pannello, poi fondamentalmente. Esatto. Oppure c'è un post-processing anche ulteriore dopo. Secondo me c'è, ma non così tanto. L'idea è quella di catturare quanto più possibile in camera, però considera che quando si facevano le riprese una volta, con le scene prese in pellicola, essenzialmente tu guardavi il direttore della fotografia doveva avere delle grandi cojones, perché doveva immaginarsi come sarebbe stata incisa la pellicola, cioè nel senso, sì, vedevi l'inquadratura, però poi come avrebbe reagito non lo sapevi. Adesso in realtà con una telecamera digitale e un monitor ad alta qualità collegati tra loro, tu su uno schermo puoi vedere effettivamente cosa viene catturato dal sensore, ti accorgi già delle incongruenze, dei problemi. Poi considera che a suo tempo c'erano diverse frequenze di refresh, per cui il proiettore retrostante deve essere sincronizzato con la camera. Certo. Adesso per certi versi è molto più comodo perché vedi in tempo reale quello che stai. What you see is what you get. Ed è interessante che ci siamo arrivati adesso al cinema, adesso nel senso 10-15 anni, mentre fondamentalmente col word processor ci siamo arrivati molto prima, per dire. La seconda domanda invece è relativa proprio al green screen, quindi all'utilizzo praticamente della scomposizione, soprattutto nei primissimi, come dicevo all'inizio, nei primissimi videogame full motion video, tipo Tex Murphy o i giochi della Sierra, che insomma alla fine avevano cucciato Wing Commander, esatto. Wing Commander però cioè il 3, poi il 4 sì, in realtà sì, usarono proprio delle scenografie, infatti andarono falliti per quello, perché la cosa gli costò più di quanto insomma. Ah, no, per quel film meraviglioso. No, no, il film non l'hanno prodotto loro, l'hanno realizzato, cioè, no? Ok. Però vabbè, il problema è che al di là del fatto che spesso e volentieri venivano utilizzati degli scenari pre-renderizzati che erano chiaramente, anche se erano pre-renderizzati, erano di qualità non fotorealistica, cioè oggi Unreal Engine da solo in tempo reale fa cose che noi non riusciamo a renderizzare con un'ora di rendering, però i difetti si evincevano proprio nello scontornamento, cioè nel senso nel vedere proprio un contorno a volte un po' fittizio, oppure nel vedere proprio la pasta del personaggio, i grigi del personaggio erano diversi dal nero dello sfondo, per dirti. Questo problema era soltanto, insomma, diciamo così, un'approssimazione, un problema anche della gestione della fotografia in ripresa, che quindi ovviamente creava uno stacco maggiore, oppure erano proprio i limiti tecnici? Allora, prima di tutto il limite era soldico. È sempre soldi, cioè, esatto, sì. da 30 anni, da quando è uscito Jurassic Park, i dirigenti di Industrial Magic hanno detto: adesso noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, il grosso problema sono i soldi e il tempo. Se avessimo soldi infiniti e tempi infiniti, ti potremmo portare a qualsiasi cosa. Nel 93, per dirti che, e ci sono 37 inquadrature con dinosauri digitali in Jurassic Park, 37. Adesso 37 sono le inquadrature dei titoli di testa che hanno comunque degli effetti speciali più complicati. I limiti sono essenzialmente soldici. I primi videogiochi, mi ricordo Seventh Guest, quello sì, Tex Murphy, lo stesso Wing Commander, sì, sono stati girati in degli studi adatti ai budget di un videogioco, che non sono i videogiochi di oggi. Oggi abbiamo un GTA che costa 250 milioni di dollari, abbiamo un Last of Us che non, Lost, sì, Lost of, non lo pronuncerò mai bene quel gioco lì, Last of Us che sarà costato 150, cioè allora secondo me l'ordine di grandezza era di mille volte in meno. Senza scherzare, probabile, sì, per considerando cui, anche la tecnologia inferiore, poi. Esatto, le giravano con un blue screen, perché non esisteva ancora la cultura del green, le giravano in video, probabilmente in video analogico, che poi veniva convertito in digitale, per cui con tutti i limiti di una risoluzione infima, ricompresso okay, ancora sì, di più, e comunque con pochi soldi a disposizione non ti potevi permettere degli artisti che avessero certi tipi di occhi. Oggi quelle robe lì le facciamo io e te con After Effects, ma veramente con la mano sinistra e intanto che parliamo al telefono. E non solo, ma c'era anche un mondo completamente diverso. Oggi veramente non è un problema andare ad acquistare forza lavoro dall'altra parte del mondo. Cioè, su Fiverr vai in Venezuela, ti compri qualcuno che ti fa queste robe qui per $5, per $50. Allora il mondo era molto più chiuso, era molto più limitato. Certo. Oddio, oggi c'è la possibilità, dici, mi serve lo sfondo di qualcosa, sei abbonato all'equivalente di Netflix, di Videoblogs, quello che usiamo insieme, FreePix, che ti danno accesso a tutte le fotografie che vuoi. Lo stesso dicasi per i modelli tridimensionali. Tu puoi andare sul mercato, su Turbo Squid, per esempio, e andarti. Mi serve un'astronave. Aspetta, quanti soldi ho? $100. Ecco, mi compro una di queste 50 astronavi che altri artisti hanno già fatto nel mondo. Cioè, è un paradossalmente c'è una tecnologia molto più sviluppata adesso, e comunque costa di conseguenza molto meno anche la forza lavoro. Considerando che, e qui passo la parola a Puccio e poi andiamo avanti, che tu considera che Epic ogni settimana regala 3 o 4 assets di Unreal Engine, proprio regala, sì, cioè quindi parliamo da scenari interi fino a animazioni, a personaggi o cose del genere, 2 o 3 settimane fa ha praticamente regalato lo scenario di un deposito ferroviario post bellico, insomma un po' post apocalittico, che era una cosa meravigliosa. E io dico, certo, se io e Alex 15 anni fa ci avessimo avuto una cosa del genere, ci avevamo fatto un film con una roba del genere. Sì. Ma in 10 minuti ai miei tempi non c'era. Appunto, insomma, vai Puccio. No, io in realtà l'unico incontro che ho avuto con questo tipo di tecnologia è stato quando ho visto 22 volte al cinema Matrix, e ho voluto sapere anche tipo come erano orchestrati i parrucchieri, il taglio di capelli, il tipo di gel che utilizzava Keanu Reeves, e mi ci sono appassionato un po'. In realtà quello che incuriosisce molto me è la tecnica che stanno usando per il Mandaloriano, mm-hmm, che è quella che ci stavi descrivendo prima, e che ho letto che pare sia stata mutuata, perlomeno in parte, per Vacanze su Marte, ma... Qui lo dico, qui lo... Pare che abbiano utilizzato parte di quel tipo di tecnologia per arrenditi, Alex, arrenditi. Ma credo che non sia un... Allora, in Italia non se ne fanno tante di cose con gli effetti speciali visivi per due motivi: uno, i soldi sono quelli che sono, e due, comunque non c'è la cultura. Noi italiani siamo quelli, ma le cose costruite veramente sono un'altra cosa. Hai presente questo? Rambaldi. Poi, sì. Scusate, poi. Poi non è che abbiamo tanti film. Sì, però Alex, noi in Italia quest'anno abbiamo prodotto il più grande film sci-fi di sempre. Io che ancora nessuno di noi ha visto. Di e anche io lo sto cercando disperatamente, lo vedremo tutti insieme su Skype. Assolutamente, ci colleghiamo tutti insieme a vederlo, perché ce lo mettiamo. No, scusate, mi avete fatto ricordare un momento bellissimo della mia vita. Carlo Rambaldi. Il papà di E.T., sì. Ok. Una delle figlie ha sposato un allora ragazzo, ora uomo maturo, di un paesino vicino Putignano di cui non faccio il nome. È rimasta incinta, ha avuto un bambino. L'ha fatta partorire mio padre, che all'epoca lavorava nell'ospedale di Zurigo. Tu sempre cose scabrose c'hai da raccontare. Sì, no, scabrose. In pratica abbiamo conosciuto Carlo Rambaldi perché è venuto alla nascita del nipote, eccetera, eccetera. Cioè, un carattere... cioè così, un pelo spigoloso. Però all'epoca si parlava molto della computer grafica, non mi ricordo se era già uscita la trilogia prequel, e io parlando mi feci sfuggire qualcosa riguardo. Si aprì un fiume sugli effetti pratici, sulla storia che viene dimenticata, sul fatto che comunque Practical Effect hanno tutta una filosofia dietro che non può essere riprodotta digitalmente, che il falso si vede subito. Ora, anno di grazia 2020, era anche ovvio che te dicesse una cosa del genere, cioè loro erano artigiani, no, era anche interessato, cioè sembrava anche interessato dai discorsi, però lo vedeva come un contorno, cioè detto sì, ci possiamo fare qualcosina, però E.T. è un'altra cosa, o Yoda è un'altra cosa. Rambaldi è anche il personaggio che quando è uscito Tron ha detto, siccome aveva già vinto l'Oscar, ha messo il veto perché non venisse premiato per gli effetti visivi, perché era stato fatto col computer, cioè indipendentemente poi che... Ma in realtà non è stato fatto col computer, esatto. Non è stato fatto col computer, è fatto a mano, esatto. Cioè c'erano tipo degli schiavi che hanno scontornato e disegnato, esatto, lo so, però Rambaldi aveva questa visione un po' molto molto conservativa, ecco, mettiamola così. Allora ribadisco, è ovvio, cioè nel senso, tu alla mucca gli dici guarda ho comprato il trattore, la mucca si incazza, cioè nel senso però, chi lo fa, sì, però fa, allora, non c'ho più. Io seguo un account Twitter molto molto interessante, che è quello di Todd Wasiri, che è un compositor senior dell'Industrial Light and Magic, che ha anche un podcast in cui parla di queste cose. È molto bello perché lui dice sempre bisogna ottenere il massimo da tutti i mondi, per cui ogni volta che sente qualcuno dice ma questo film è fatto fisicamente non digitalmente, per cui è più bello, e lui ti scompone le inquadrature di questo non è vero, questo non è vero, questo è digitale, bisogna saperle fare insieme le cose, saper Quattro, girare quello d'accordo. Che c'è da girare, saper compositare quello che c'è da compositare, prendendo il meglio di tutto quanto. Io diciamo che avevo un approccio partigiano su queste cose, non serve a niente, cioè oggettivamente tutto ciò che può migliorare, mischiato, non mischiato, roba del genere, cioè preferire una cosa piuttosto che un'altra non ha senso. Sì, anche perché poi detto questo è frutto del spesso e volentieri di un di ignoranza, ma non nel senso più puro del termine, nel senso che si ignora. A oggi le cose sono talmente raffinate che se ti dicono cosa è vero, cosa è falso, cioè non ci credi neanche. Per cui va anche bene, cioè a un certo punto gli addetti ai lavori hanno detto sai che c'è? Sì, guarda, è fatto fisicamente, pratico, non rompere i coglioni. Mad Max Fury Road l'hanno fatto tutto dal vero, anche l'uragano è vero, sono messi lì a soffiare 500.000 australiani, ha fatto la scorreggia insieme, ha fatto l'uragano, vai tranquillo, cioè perché è così. E poi comunque il regista, cioè Miller, che è vecchio, c'ha 86 anni, cioè è infinitamente vecchio, sul direttore della fotografia è più vecchio di lui, era andato in pensione e gli ha detto senti torna fuori dalla pensione che dobbiamo far vedere a sti stronzi giovanotti come si fa il cinema, e gliel'hanno fatto vedere. Lui dice io mischio, faccio tutto quello che posso usare per fare questa, tutti gli ingredienti che posso usare per fare questa torta li uso. Allora la mia esperienza, il mio piccolo, da regista di spot televisivi, io ho usato spesso e volentieri il green screen, il compositing, come una seconda natura. Ci sono tantissime cose che sono bellissime fisicamente e sono più belle da riprendere fisicamente, anche perché sono facili da gestire e sono perfette già al primo colpo, però non, la mancanza di libertà che ti dà il fisico te la dà il digitale. Se tu riesci a mettere insieme le due cose è ancora una figata. Io la cosa su cui mi ero specializzato di più era fare riprese di giocattoli in green screen, dove il giocattolo era l'unica cosa vera e tutto quello che c'era attorno era digitale. Così il mio il prodotto era vero, era lui, cioè non c'era problema, il cliente poteva dire questa è la mia cosa, la costruisco io. Tutto il resto che non è prodotto, cacchio, ci metto dentro quel cavolo che voglio. Però questo comunque assolutamente... un grande esempio è stato Forrest Gump, no? Un utilizzo intelligente, sì, di diverse tecniche, degli effetti speciali tra digitali e non. Che comunque alla fine, anzi, sono state pure discrete, no? Perché non è il fulcro, no, della situazione. Ho sempre apprezzato questa cosa. No, sì, infatti, film. Zemeckis, bisogna riconoscerglielo, negli anni 80 e 90 ha dato al cinema tanto, tra Ritorno al futuro, Forrest Gump, Contact e Roger Rabbit, ha fatto fare palzi in avanti di 15 anni al cinema in pochissimo tempo, anche 20 anni, molto più di tanti suoi di registi più blasonati dell'epoca, di vari Spielberg eccetera. E la sua eredità forse è venuta fuori con Cameron, anche se secondo me è stato meno Cameron è più un produttore, è un grandissimo regista, cioè figata avercene come lui, però Zemeckis è proprio un regista puro, cioè io, per tutta la vita per me l'idea di Roger Rabbit, un cartone animato che corre, distrugge il vetro dove esce e rimane la sagoma, è un effetto pratico con un altro effetto pratico disegnato messo insieme, cioè non... ed è stato il primo a utilizzare il composite in digitale in Ritorno al futuro parte seconda per eliminare comunque, i cavi. Qui concludo, mi ricordo che praticamente uno dei primi filmini che ci ho avuto in Super 8, un cartone animato, che vabbè io ho raccontato tante volte, ma magari una volta ci accentriamo, ci facciamo una bella puntata su questa cosa. Uno dei primi è stato quel famoso cartone animato della Disney, dove c'era l'arbitro che era fisico, cioè che era un personaggio vero, un attore, e tutto il resto erano cartoni animati. Era una partita di pallone tra animali praticamente. Era Pomodoro Tommy e i Manici di Scopa, no? No, guarda, sì. Non mi ricordo perché sì, era solo sì, lo scorcio film, della partita. Non me era lo dico perché l'ho fatto vedere a mia figlia qualche giorno. Sì. Bellissimo, veramente. Ma io tante volte, siccome c'avevo la moviola a casa, ma mi guardavo fotogramma e fotogramma per cercare di capire, cioè, ma è vero questa cosa? Come fanno? Cioè, quando ero ragazzino stavo intrippato queste cose. Va bene, allora ragazzi, adesso abbiamo un'intervista importante perché c'è un evento importante. Via. Carissimi amici, allora ci ritagliamo questo spazio con Umberto Parisi. Ciao Umberto. Buonasera a tutti. Allora, con Umberto lo sapete, insomma, facciamo tantissime chiacchierate sui nostri podcast, videogiochi, non videogiochi, Runtime di notte. E do sempre a Umberto la possibilità, lo spazio, insomma, di parlare della sua produzione, però in realtà lo facciamo sempre in maniera un po' giocosa. Questa volta Umberto è sì rappresentante dei Beceri Videoludici, l'autore insomma del podcast che trovate anche su Twitch e su YouTube oltre che su Spreaker, però è comunque il creatore insomma della Psychodev, no? Che è questa piccola software house che nel 2017 ha realizzato un'avventura grafica, giusto? Sì, Chronicle of Ismaut, esatto, che suppongo sia stata un questa piccola avventura insomma di esordio, che è stata un po' una sfida, un po' un gioco, un po' tutto insomma. Come è nata la questione? Beh, la questione è nata decisamente per gioco, come dicevi tu, quindi niente, mi sono messo lì, mi sono messo a smanettare perché da grande appassionato di videogiochi mi sono chiesto ma come si farà mai un gioco, non essendo io un programmatore poi di base, quindi non almeno all'epoca non poteva neanche essere accostato il mio nome alla programmazione, magari oggi qualcosina in più sì, però insomma così mi misi a cercare. Ho sempre avuto una grandissima passione per le avventure grafiche ed incappai in questo Adventure Game Studio, dove cominciai a smanettare. Ho detto ah, ma forse qui la cosa si può fare, cioè più o meno è nata così. Certo, c'è qualcosa di positivo ne può uscire fuori. Poi in realtà nell'esperienza che tu hai fatto, che probabilmente è stata più travagliata, no, di quello che tu ti aspettassi, hai comunque acquisito non solo esperienza ma anche competenza da sto punto di vista. Eh beh, diciamo che la cosa partita per gioco prima si è trasformata comunque in uno studio successivamente di alcuni mesi per acquisire quantomeno quelle che erano le basi e la logica che sta alla base di tutto questo mondo, che comunque ti serve. Poi tutto il resto, tutte le cose accessorie, diciamo che sono venute nel tempo, ma anche negli anni, volendo, non in pochi mesi. No, d'altronde no, è stata una produzione di quasi 3 anni, dal 2014 al 2017, Chronicle of Innsmouth. Sì. Chronicle of Innsmouth, che io, sapete, non ce la farò mai a dirlo, che prende ispirazione da due elementi cardine: le avventure Lucas, infatti è molto stile, no? Cioè, nel senso, sì. E vabbè, e Lovecraft, che insomma penso sia una tua grossa passione, insomma. Diciamo che sì, probabilmente è tra i miei autori preferiti, è sicuramente quello che mi ha regalato atmosfere migliori nelle mie letture. Quindi, d'altronde, è preso da un racconto specifico che è L'ombra su Innsmouth, e la cosa particolare può essere che abbiamo cercato appunto di basarci sul Lovecraft letterario senza tener conto di tutto il mondo che pur conosco, che riguarda ciò che è stato costruito sopra Lovecraft e poi tutti gli altri media che se ne sono appropriati, partendo dai giochi di ruolo ad altri, certo, videogiochi, ad autori che hanno scritto basandosi sulla cosmogonia di Lovecraft, per esempio, no? Invece mi sono voluto proprio attenere al libro. Perfetto. Allora, mettiamo nelle note dell'episodio anche il link, ovviamente, al gioco del 2017, che costa 12,99 euro, ma non è per questo, insomma, che siamo qui oggi, perché insomma, dalla grande fatica e anche un po' dalla soddisfazione, no, immagino, di aver realizzato questo prodotto, che comunque insomma ha avuto i suoi bei riscontri, Umberto e la Psychodev, giustamente conseguenza, si sono imbarcati in un'avventura successiva che è un po' il seguito, no, di questo gioco. Cioè, sì, il classico seguito / prequel, però non nato con fare ruffiano, nel senso che il gioco mi è venuto in mente scrivendo il primo, cioè già avevo intenzione di fare questo qui. E è un gioco molto più grande del primo e anche molto più tecnicamente proprio su un altro livello, proprio, cioè nel senso, proprio concettualmente, dal punto di vista visivo, poi vabbè, insomma, avremo poi modo, insomma, durante i prossimi mesi, settimane, insomma, di giocarci, però è sicuramente un grosso passo avanti, insomma. E stiamo parlando, ricordiamolo, di sempre di Chronicle of Innsmouth, attenzione, ce l'ho fatta, Mountains of Madness, quindi praticamente le montagne, come dice il buon Lobby Frontali, della scapoccianza, insomma, della scapoccianza. Esatto. Naturalmente basato su Alle montagne della follia, che è The Mountains of Madness di Lovecraft, però in questa volta allontanandoci decisamente da quello che è il racconto / piccolo romanzo di Lovecraft nello specifico, ma è molto romanzato da parte nostra, perché a un certo punto è diventato il mio mondo basato sugli scritti di Lovecraft, per intenderci. Cioè, che mentre la prima opera era fortemente concentrata sull'opera letteraria originale, qui ovviamente tu hai preso un po', come posso dire, il posto dell'autore e hai detto che io mi ispiro a questo, mettendoci anche del mio, suppongo, no? Perché poi... Sì, perché poi è nato, guarda, per rendere tutto più credibile, dato che la parte letteraria spesso, che è fatta di tanta introspezione psicologica che tu nei videogiochi comunque non puoi mettere, anche in un videogioco testuale, altrimenti sarebbe di una noia mortale, necessitava che si rafforzassero alcuni concetti che nel libro, ad esempio nel primo racconto, sono un po' vaghi. Per fare questo noi abbiamo, non è presentato nel primo Chronicle of Ismath, ma abbiamo scritto tutto un background, basandoci naturalmente sugli scritti di Lovecraft, ma scrivendolo noi di nostro pugno con il collega dell'epoca, tutto un background su cui il gioco si basasse. Da questo sono uscite fuori tantissime idee, e la prima è stata Mountains of Madness, cioè quella immediatamente successiva. Ma ti dico che io teoricamente avrei almeno altri 4 giochi da poter realizzare, che non si sa poi, no, perché alla fine so che comunque ti stai addentrando in ulteriori sperimentazioni, no, stai studiando altre cose, però va bene, sì. Rimaniamo sul focus, poi avremo modo sicuramente di tornarci sopra. Sì. Allora, perché siamo qui poi a parlare di questo gioco? Perché questo gioco ufficialmente esce l'1/2021, no? Quindi cioè a gennaio, insomma, a gennaio del 21 gennaio 2021 dovrebbe essere. Sì, esatto, qui perlomeno su Steam così c'è scritto, e dice mettilo tra insomma nella lista dei desideri. Aggiungetelo alla lista dei desideri. Anche questo metteremo il link, perché presto sarà giustamente disponibile, anche se in questo periodo il gioco è in beta testing sicuramente, e poi uscirà insomma anche nella versione per chi ha bacherato, no? Quindi chi ha sostenuto il progetto tramite la raccolta fondi, giusto? Versione che stiamo preparando adesso. Sto letteralmente impazzendo per fare il polishing di questa versione da Larry Baker. Quindi immagino, perché poi io a Umberto gli ho detto: Umberto, facciamo questa intervista dei 20 minuti e sono andato ad aggiungere altro stress allo stress che si ma figurati, questo è un piacere, figa, mi rilasso, è il pensiero di quello che bisogna fare che ti terrorizza, dice, quando sì, attacchiamo sì. Questa conversazione, senti, che cosa vuoi dire su questo gioco, magari dato che appunto è in prossimità, che lo metteremo nelle note dell'episodio, cosa ti senti di dire, perché secondo te questo progetto comunque merita, e insomma, vabbè, è un invito alla gente a sostenerlo, perché comunque già solo che è un prodotto italiano, no? Sì, allora guarda, ti dico, è un prodotto più maturo naturalmente, sia nella scrittura che nel game design, perché naturalmente agli errori del passato si cerca di rimediare. B, è un gioco fatto davvero comunque con amore, cioè son giochi fatti in casa, son giochi artigianali, dove praticamente quasi in outsourcing non è dato quasi niente, è fatto praticamente il 98% di quel che vedi è fatto da me e da Andrea prima che lasciasse il team, perché è andato via. E la scrittura è simpatica ed ha una particolarità che forse per le avventure grafiche non è mai stata utilizzata, avendo io già pronto ai tempi del primo gioco il plot successivo, ho fatto giocare di ruolo al gioco di ruolo del richiamo di Cthulhu il plot di Mountains of Madness prima di cominciare a realizzarlo. Per vedere un pochettino cosa ne uscisse fuori. Una bella sperimentazione, interessante. Sì. Perché poi i giocatori ti danno idee, e infatti qualche personaggio che trovate o qualche situazione che trovate poi all'interno del gioco è partita da me come master, ma magari l'esecuzione della cosa è stata fatta dai giocatori, o un personaggio, che ne so, William Blanco, che se comprerete troverete, e in realtà non è un personaggio letterario di Lovecraft, è un giocatore che ha giocato di ruolo quel personaggio lì. E questa è stata una sperimentazione simpatica che fa molto sicuramente viene fatta quando vengono fatti i giochi di ruolo, sono convinto, no? Soprattutto quelli lì occidentali. Però per le avventure grafiche non credo che sia un'usanza molto comune, o almeno io non ne ho mai sentito parlare. No, in effetti è la prima volta che sento di una che in realtà cioè nel senso, al di là dell'ispirazione, dell'intenzione che uno ha nel racconto come autore, però insomma trovare anche lo spunto creando questo, magari un gruppo creativo di persone che ti aiutano, tu come master, loro come giocatori, è figa come idea, insomma mi era nuova questa cosa. cosa, poi magari lo faranno come dici te, magari in altre realtà, insomma, però nell'ambito dell'avventura grafica sicuramente non lo so, non l'ho mai sentita questa cosa. No, anche... sì sì, è simpatica questa cosa, è stato anche divertente, ti dirò, c'ho altri quattro giochi, perché noi poi siamo andati molto oltre Mountains of Madness poi con la giocata di ruolo, io ho tutte le sedute registrate audio, capito, per naturalmente altrimenti le dimenticherei. Eh sì, certo, certo, questo non immagino. La prossima volta partecipo pure io allora. Va bene, c'ho anche io il mio personaggio, poi io mi suicido sicuramente. Vabbè, detto questo, Umberto, io non ti voglio rubare tantissimo tempo, ma ci tengo, lo sai, io, cioè, nel senso, non ho magari sostenuto il progetto nel modo in cui hanno fatto in tanti, però quello che posso dare è cercare di dargli il massimo spazio possibile, lo faccio perché secondo me sono convinto del fatto che chi mette comunque impegno e passione all'interno di una cosa, tra tutte le stronzate che ci stanno su Steam, e questo mo lo dico proprio in maniera appassionata, cioè comprate un prodotto che è fatto da un ragazzo italiano che ci ha messo l'impegno e che sicuramente vi soddisferà, perché comunque col primo siamo divertiti, poi insomma era un po' disorientante perché prima c'aveva un'atmosfera, poi c'era un cambio, però qui in questo caso vedo delle cose che mi ispirano profondamente. Beh, in questo caso il gioco è meno faceto, diciamo, del primo, ma perché per forza di cose, per i temi trattati, non poteva, ma anche esteticamente non poteva essere trattato allo stesso modo, perché mentre nel primo c'era, io il primo l'ho disegnato io e un po' l'altro ragazzo, quindi il mio allenamento è stato sugli sprite della Lucas, quindi aveva quell'estetica lì, comunque un pochettino pixel art, certo. Però la pixel art lì, quindi un po' buffa così, quindi magari si prestava anche qui. La battuta si presta un po' meno, e poi il tema è serio, cioè una storia più tra virgolette lineare, e di toni qualche battuta c'è sempre, perché io poi a me piacciono, quindi certo. Non te privi. Vabbè, il gioco, diciamo, risente di una consapevolezza sia narrativa che costruttiva, che magari nel primo, come hai detto, essendo partito magari come gioco, magari ci aveva di meno, no? Quindi c'è sta cosa, si vede che è un'opera più seria, no? più profonda, magari, ma profonda no, perché lo era pure per quell'altro, però l'impatto che tu c'hai, no? Da esterno, vedendo le immagini e via dicendo, quindi vabbè, insomma, mettiamo, però una cosa la posso dire, sì. Lo scrissi anche appena lo finimmo, mi ricordo, su Facebook. L'entusiasmo che hai con la prima volta in qualcosa, però quello non ti tornerà mai più, sai? Perché secondo me è l'atteggiamento sbarazzino della persona inconsapevole da una parte, no? Cioè, nel senso, sì, sì, vediamo che succede, no? E quindi lo fai per gioco. Dopo quando invece assumi l'idea di fare una seconda opera, a quel punto la fai con un approccio più serio, no? E c'è quella professionalità che alla fine acquisisci, che ti lascia meno libertà dal punto di vista magari spirituale, però sicuramente secondo me ti darà molte soddisfazioni dal punto di vista generale, insomma. Certo. Speriamo di riuscire, poi è sempre una questione di equilibrio, no? Speriamo di riuscire a trovare quello lì giusto, quello lì, quello corretto. Non bisogna né essere troppo professionali e seri, né troppo sbarazzini, tanto da risultare, certo, poi pallosi, non lo so, pallosi oppure antipatici, sai, perché poi il troppo sbarazzino a un certo punto viene a noia. No, non è vero. Poi magari a fine gennaio, dopo che ci abbiamo giocato tutti, insomma, torniamo con l'autore, torniamo a fare magari un'analisi critica generale di questa nuova opera. Ma volentieri, ma basta che non mi insultate. No, io poi, sai, non t'ho mai insultato, anche perché c'ho paura, quindi... No, dico, basta che non mi insultate, nel senso che, capito, non è costruzione critica, se poi il gioco mi ha fatto schifo. No, poi... ma critica sempre, come posso dire, sempre quella cerchia di persone che comunque hanno sicuramente giocato al gioco e che possono fare delle osservazioni positive e magari anche dei suggerimenti magari per il futuro, perché poi tanto è sempre così, insomma, no? No, cioè, ma è sempre importante ascoltare. Infatti io le critiche, quelle lì, ho fatto tesoro di tutte le critiche, quelle lì ben fatte e ragionate. Naturalmente la critica non mi piace, non mi serve a molto. Sì, come quelli che vedi la recensione su Steam che ci ha giocato per 0.1 ore, questo gioco fa schifo. Vaffanculo, no? Senso... no, più o meno questo concetto qui, sai. Va bene, Umbè, ti lascio la parola finale, così puoi dire, dici l'ultima cosa che vuoi e poi ci salutiamo. Vabbè, io ringrazio tutti quelli che eventualmente si interesseranno al gioco, che lo prendano o meno, che vi vediate un gameplay, che lo scaricate pirata, a me basta che ci giocate, che vi devo dire, mi state rubando dei soldi ma non fa niente. maledetti. Sì, a parte questo, vorrei dire che per chi è interessato, per prenderlo a un prezzo concorrenziale, fino all'uscita sarà disponibile su Indiegogo. Ah, okay. Anche la versione digitale o la versione fisica, che probabilmente questa volta, che nel primo gioco uscì postuma, ma questa volta non credo che uscirà postuma, ma sarà un'edizione solamente per il crowdfunding. Ok, diciamo, allora mettiamo anche questo link nelle note dell'episodio, in modo che potete andare direttamente al riferimento specifico dato da Umberto. Umberto, grazie di tutto e in bocca al lupo. Grazie a te, crepi, grazie, viva il lupo. Come viva, si dice? Viva il lupo, sì, sì. No, crepi no, crepi il lupo no. Vabbè. Buona fortuna allora. Buona fortuna, grazie. Dai, ciao. Ciao. E ritorniamo, facciamo tanti auguri a Umberto, facciamo insomma tutto il tifo per lui, ma soprattutto perché insomma questa produzione vada, insomma, abbia successo, in modo che poi magari realizzerà anche altri progetti. E passiamo dal cinema, dai videogiochi, cinema, introduzioni, video, roba del genere, e passiamo a Puccio, che di cinema sappiamo insomma, e poi una volta con cazzo, no, però, vabbè, però una volta dobbiamo far capire Netflix. Scusa, ti ho parlato sopra, Puccio. No, scusa tu. No, stavo dicendo, addirittura, proprio per dimostrarti che io quanto non capisca un cazzo in generale di cinema e di narrazione visiva, stavo dicendo che una delle sintesi più belle tra digitale e fisico, io l'ho vista nella serie di Dark Crystal di uscita su Netflix, che riprende il cartone animato di Jim Henson. Lì ci sono pupazzi che vengono animati in parte dai marionettisti, in parte sono rifatti in digitale. Vabbè, sono, sì, anche perché oggi penso che sia quasi più, cioè, sì, secondo me la parabola si è spostata dall'altra parte. Oggi è sicuramente forse quasi più si guadagna più tempo e denaro a utilizzare il digitale piuttosto che a fare lo stop motion, penso, suppongo, poi non so, Alex, tu che dici? Sì, assolutamente, ma in realtà più che stop motion loro hanno fatto puppeting, cioè nel senso i pupazzetti, gli animatori, esatto. Dipende, poi sai, alcune cose hanno un tale stile che è difficile tirarle fuori, cioè secondo me è anche giusto che abbiano fatto le cose quanto più possibile. Magari hanno usato i personaggi animati a mano, mm-hmm, e poi hanno utilizzato il digitale per l'estensione degli sfondi, per il composite, per gli effetti speciali, per rimuovere i cavi e i bastoni di animazione. In questo caso, però devo anche dire che per esempio con Spider-Man Miles Morales, per esempio, non mi ricordo come si chiama il film, Into the Spider-Verse, ecco, praticamente lì pur avendo capito che era fatto tutto in 3D, cioè, e questo utilizzo della tecnica seamless stop motion mi ha tratto in inganno, cioè per un attimo dico, ma come cazzo è fatto? Cioè, hanno fatto così o cos'ha? Cioè, e devo dire, veramente hanno fatto un gran lavoro. Vabbè, ma oggi, ragazzi, penso delle maestrie incredibili. Comunque, vabbè, dai, andiamo a Puccio. Puccio, c'hai un libro, perché tu... Passiamo a noi. Tu, in realtà due, tu, a sorpresa. Scusa, tu, nelle puntate di Ludico Forum... OGM. No, Ludico Forum, che c'entra OGM? Che cazzo dici? Ludico Forum praticamente presenterai libri, giochi, ma anche videogiochi qualche volta. Però prevalentemente, insomma, meno male. Però prevalentemente, dato che è una cosa che fai quasi solo tu in questo ambito, insomma, libri, giochi cartacei, cose varie e strane che conosci solo tu, insomma. Andiamo bene. Allora, spero di farle conoscere ad altri. Allora, premessa: qualche anno fa io mi sono innamorato di una casa editrice inglese d'Inghilterra che si chiama Bitmap Books. Loro sono nati facendo delle collane di libri che si chiamano Visual Compendium. In pratica scelgono un sistema di gioco, sono partiti col NES 8-bit, poi hanno fatto varie console e fanno in un libro una raccolta per immagini dei giochi più famosi, con una serie di fotografie fatte al gioco in alta risoluzione, in più, diciamo, un po' di schede tecniche, un po' di interviste agli autori o altro materiale di archivio interessante. Quello più bello secondo me è stato quello per il Super Nintendo, per il Super Famicom, che è veramente un gioiellino. Siccome l'hanno ristampato di recente, se volete fare un regalo di Natale cascate bene. Ogni tanto però vanno fuori dal seminato, invece che dedicarsi ai libri tematici sulle console o sulla serie di giochi, pubblicano dei saggi su vari argomenti. Ce n'è stato uno molto bello sulle avventure punta e clicca, uno bello sul Neo Geo, che ho esattamente qua dietro in questo momento. L'ultimo è stato una sorpresa molto bella, si chiama The Games That Weren't, i giochi che non sono stati, ed è il risultato di un lavoro pluriennale di un giornalista del settore che si chiama Frank Gasking, inglese, che viene da una delle redazioni più famose. In pratica si è intervistato decine e decine di sviluppatori su giochi annunciati e mai usciti. Per vari motivi, in realtà sono divisi, il libro procede per anni, parte dal 1978 e va avanti fino ai giorni nostri, però è interessante vedere come in realtà lui sia andato anche per motivazioni, cioè ci sono giochi che non sono usciti più per motivi economici, c'è un'ampia schiera che parte dall'Atari e arriva fino alla PlayStation 4 di giochi che semplicemente non ha retto il budget, erano troppo sono proprio spariti. Assolutamente. Una cosa che mi ha dato molto da pensare è che il Fallout 3 che conosciamo noi non è il Fallout 3 che doveva uscire. Ah già. Perché il Fallout 3 che doveva uscire era quello in bidimensionale, tra virgolette. Era tridimensionale, però era sempre in isometrico. Però era isometrico. Era un falso 3D, viene spiegato più o meno nelle parole del completo al 95%, poi se non sbaglio. È preso e buttato nel cestino. Esatto. In realtà pare che avessero tentato di resuscitarlo sotto forma di add-on per Fallout 2. No, non gliel'hanno lasciato fare, quindi è morta lì. Quindi giga e giga di asset presi e buttati nel cesso. Però qualcuno ce l'ha, qualcuno ce l'ha, però. Come? Qualcuno ce l'ha, gira il codice in giro. Sì, non è stato poi compilato, sono stati fatti amatorialmente dei porting da quello che poi gli sviluppatori hanno fatto. C'è una nutrita schiera di giochi per le piattaforme CD del decennio 90-99 che non sono uscite semplicemente perché facevano schifo. Tipo un'avventura interattiva su Echo the Dolphin, che doveva diventare la seconda mascotte della Sega, che in realtà non ha mai sfondato più di tanto ed è rimasto Sonic sul podio. Puccio, è anche una storia che posso fare una domanda prima che lo perché può essere che lo dici, però secondo me lo dici. C'è Star Trek The Vulcan Fury? Sì. Ok. Ragazzi, voi non lo sapete da quanti anni io sono stato dietro a sta cosa, ma dove cazzo è andato a finire sto gioco? Poi dopo alla fine ho trovato anche dei video su tutto quanto. Ci sono dei video su YouTube che fanno, cioè questi stavano, sì. L'idea era anche avanti, cioè hanno fatto altro che Telltale 10 anni prima, proprio, cioè, vabbè, comunque vai. Ciao. Sì, ma in realtà lì è stata una questione di soldi, se mi ricordo bene. Sì, non quindi, sono andati fuori col vasetto. Banalmente quello. E anche pare di litigate all'interno del team, ma quello poi lo è comunque sempre avanti. Interplay, quindi vuol dire che c'è i problemi c'erano loro, insomma, la prima. Esatto. No, invece una storia raccontata qui dentro che mi ha lasciato perplesso perché proprio non ne sapevo nulla, è un gioco sviluppato da Sensible, famosi per Sensible Soccer, ma anche per altro tipo Cannon Fodder, chiamato Sex, Drugs and Rock and Roll. Doveva essere un'avventura in 3D, simil Lucas, sulla vita di una rockstar con tutta una serie di vizi particolarmente sviluppati. Semplicemente il gioco è arrivato tipo al 75% dello sviluppo, è stato visionato dal management di Sensible, che ha preso gli sviluppatori e li ha accompagnati gentilmente alla porta. Ma perché faceva schifo o per le tematiche? Perché veniva considerato troppo maturo per l'epoca e perché veniva considerato troppo costoso per un rischio del genere. Cioè, in pratica gli è stato detto, già costa quello che costa, se manco vende perché ci faranno la guerra appena arriva sugli scaffali, piuttosto ci teniamo la perdita e arrivederci e grazie. Fu però una mazzata abbastanza seria a Sensible dal punto di vista economico, però pare si sono rivenduti buona parte degli asset, quindi un ritorno economico ce l'hanno, in sostanza ce l'hanno avuto ed è andato molto molto molto. almeno da quello che dicono. Ci sono anche storie abbastanza incredibili, tipo versioni di Tetris che sono uscite e subito ritirate dal mercato perché dietro Tetris ci sono state infinite dispute legali. Quella magari è la parte storicamente meno interessante, perché sono argomenti triti e ritriti, già sviscerati in altri libri. Però sapere che su molte piattaforme Nintendo Tetris non poteva uscire per casini di diritti è abbastanza interessante. Io come libro ve lo raccomando vivamente, perché poi magari lo mettiamo nelle note. Come si chiama? The Games That Weren't, della Bitmap Books. L'altro invece di cui vi volevo parlare molto più rapidamente, io ve lo faccio vedere anche in webcam, tanto chi se ne frega. Infatti, sta roba gli spettatori non la vedranno mai. Esatto. L'ha fatto uscire Panini qualche mese fa. Panini, ed è il World Book, Panini Comics, sì. Ed è il World Book di Cyberpunk 2077. Allora, non è una guida, perché all'interno di tutto quello che c'è non si parla della trama, non c'è niente. Semplicemente è un libro illustrato con immagini prese dal materiale di sviluppo del gioco, fa da raccordo tra il gioco cartaceo, l'ambientazione di Cyberpunk 2020 e quello che è Cyberpunk 2077. Ti racconta gli eventi di mezzo, okay, cioè le guerre corporative, quelle che vengono chiamate in italiano le guerre metallare. Non so se le hanno tradotte così anche nel videogioco. No, mi sa che sul gioco sono i corporativi, quindi no c'è una, sì, oddio, può essere che poi abbiano usato altre versioni. No, te lo dico perché l'ho visto prima un pezzo di gameplay, quindi sono curioso. Cioè tutta una serie di schede. Con questo gioco Sensible l'ha fatto bene, non farlo uscire, è veramente una bella merda. Stai vedendo la cagata, sì, in mano, sì. Okay. Vabbè, tieni presente pure gli anni in cui l'hanno sviluppato. Sì, vabbè, faceva schifo uguale, dai. Vai avanti, scusa. Quindi stavo dicendo, ci sono anche delle schede, ti vengono introdotti personaggi come quello di Kenny Reeves, Johnny Silverhand, ma anche altri. Ti viene fornito in un certo senso un contesto del gioco in cui ti andrai a muovere, perché al di là di quanto possa essere grande Cyberpunk 2077, lo vedremo tra qualche ora, ma il preload è finito, al di là di tutto non penso che si potesse narrare tutto il materiale che è inserito nel World Book che ha pubblicato Panini in italiano all'interno del gioco senza diventare una palla al cazzo. Certo. Bene, metteremo questi due libri nelle note dell'episodio, quindi se volete poi ve li acquistate, quindi ci saranno solo questi due link sulle note dell'episodio, non c'è chi deve scrivere altre cose tipo la storia del green screen, roba del genere. Io chiuderei però, tornando un attimo da Alex, e poi chiudere proprio, perché diamo spazio anche alla nostra community, perché noi diciamo sempre la nostra community in realtà non fermenta tanto, no? In realtà è vero pure che noi non gli diamo neanche tanto spazio, e questa oggi c'è stata una discussione tra virgolette polemica, ma in realtà non è polemica, perché Alex ha sempre sostenuto con coerenza delle sue cose, no? Delle sue idee. Il mio odio è perché coerente. Si parlava Il mio odio è coerente. Il tuo odio è coerente, vuoi raccontarla tu? Allora no, forse avrei piacere. Tanto hai capito di che parlo. Sì, avrei piacere che facesse l'introduzione il buon Puccio, perché lui sa di cosa si parla. Cioè l'oggetto che è, com'è che si chiama l'oggetto, il pico? È quello che è, sì, il pico 8 bit lì. Ah, la, vabbè, ok. Una delle tante, dei tanti strumenti da retro gaming che sono venuti fuori negli ultimi anni. Francamente, vi dico la verità, io non me lo sono calcolato più di tanto in questo momento. Cioè, ho dato un'occhiata alle immagini e agli articoli che sono volati all'interno della chat, però onestamente è una delle poche cose che non mi ha proprio ispirato. Sì, vabbè, a me in generale no, però comunque in realtà diciamo che spesso e volentieri anche tra i nostri utenti capita di discutere di come vengono riportate su determinate tecnologie, che poi è una cosa in generale che si è sempre fatta, sta cosa di Doom, portare Doom su ogni, cioè sulle lampadine a LED, insomma, no, per i test di gravidanza. Esatto, vabbè, che poi quella era una cazzata, abbiamo scoperto, sì, con Sant'Agostino, insomma, che era una cazzata, perché lì era il display che veniva utilizzato, no, la tecnologia che stava dentro, insomma, quindi è un po', cioè era un po' taroccata, insomma. Però il discorso è che alla fine anche oggi è uscita praticamente questa ennesima riproposizione a 8 bit a 150x150 pixel di Doom, che tra l'altro io andandola a guardare, cioè ragazzi, io non l'avrei mai potuta giocare una cosa del genere, cioè non si distinguono le cose, ma fondamentalmente sarei diventato cieco. E allora Alex giustamente ha fatto una sua esternazione, che di per sé lì per lì a magari a un super appassionato può avere una reazione, come posso dire, contraria, nel senso quasi avversa, cioè tipo ah, ma che cazzo stai a dire? Però secondo me invece c'ha un suo senso, Alex. Allora, posto che il retro gaming per certi versi mi entusiasma, anzi mi piace perché mi fa rivivere momenti della mia infanzia, della mia adolescenza, perché certe cose sono successe quando avevo 10 anni, 15 anni e a distanza di 30-35 anni rivederle un po' mi riporta, riaccende dei neuroni che erano un po' sopiti, per cui il retro gaming mi interessa moltissimo. Alcuni dei canali YouTube che seguo di più sono proprio canali di retro gaming. Sono un pochettino più perplesso sulla questione di sviluppare software per retro computer, cioè nel senso sviluppare software per Commodore 64, per Spectrum, o ancora più strano, cioè sviluppare delle console o dei computer 8 bit nel 2020. Anche perché poi tutte queste cose che vedo, cioè i software che escono oggi per Commodore 64 sono allucinatamente meravigliosi dal punto di vista tecnico, cose che allora non era possibile realizzare, oggi invece sì, per certi versi. E in una fiera di retro computing abbiamo visto un full motion video su un Commodore 64 che, se ci pensi, è assolutamente follia pura. Però la cosa che un po' mi lascia perplesso, a volte mi lascia perplesso bene, a volte mi lascia perplesso un po' meno bene, è il fatto è che per fare queste cose così belle oggi, cioè su questi computer, ci vuole del talento, ci vuole delle grandi capacità, grandissimi skill. E io dico, perché fare queste cose che sono assolutamente limitate e limitanti? Perché se tu sviluppi un gioco per una macchina che non esiste, è un po' veramente come scrivere una storia che nessuno leggerà mai. O magari se te la legge qualcuno, te la legge perché allo stesso fa parte della tua cerchia di persone che apprezzano questa cosa al punto tale da farla diventare una sorta di propria missione di vita. Però mi sembra spesso e volentieri come una sorta di vivere un po' nel passato, che in alcuni casi mi rattrista, in altri casi un po' mi fa girare le scatole, perché è come dire, tanto talento, tante capacità per realizzare qualcosa che poi non servirà a nessuno. E questa cosa qua oggi forse sono stato un pochettino più infervorato, però è una cosa che... Stai usando un blasone. No, dai, no, davvero, non ero molto più. No, anzi, devo dire, ho visto The Badge. Esatto. Cioè, ricordati, scherzato. Puccio, che io e Simone, quando andiamo a mangiare al sushi insieme, beviamo birra, lì vedi veramente fin quanto in passo posso scendere. Lì nasce l'arte, da dire il vero. Assolutamente. No, in realtà, guarda, io sono parzialmente d'accordo con Alex. Allora, per quanto riguarda la costruzione delle console a 8 bit, oggettivamente anch'io fatico a comprenderne il senso, se non rivivere un po' quel mondo homebrew, capito, della cantina dove si costruivano i computer e via dicendo. Però oggettivamente faccio un po' fatica a comprenderlo. Il discorso dello sviluppo, secondo me, cioè, se la vediamo da un punto di vista storico, il superare quelli che si consideravano i limiti hardware di un determinato macchinario aiuta a capire quanto quel macchinario avesse poi ancora da dire dal punto di vista pure storico, no? Quindi secondo me un senso ce l'ha comunque. Ma è uno sti cazzi che quando... cioè il sapere che adesso con lo Spectrum puoi evitare color clash, va bene, ma chi se ne frega? Cioè, è un po' come dire, ma lo sai che i romani contro i cartaginesi potevano usare la spada più... Ma sì, tanto la storia è andata così. La katana. Perché la storia è andata sì, così. Sì, no, è vero, però, cioè... però comunque diciamo che da un punto di vista della ricerca scientifica c'ha comunque senso. Quando diventa un semplice virtuosismo, cioè nel senso, regà, guardate quanto io ce l'ho lungo, allora se ce l'hai lungo confrontati anche su altri campi, cioè nel senso non fare cose che veramente rimarranno solo in una stretta cerchia. Su questo sono d'accordo. Non so, Puccio, tu invece come te da Puccio? No, a me questa io ogni volta Puccio sta aspettando che finisce il download di Cyberpunk, capite quanto gliene frega il cazzo. Finito da mo. Ah, già finito. No, tanto cioè per ora non lo sblocco. No, poi io sono anziano, tra mezz'ora sto dormendo, quindi giocherò domani. No, grande buio, ti l'ho fatto volentieri. No, io ci ho fatto la notte, ragazzi. Regà, cioè, lascia perdere. No. A parte che mi mancano tipo le ultime 20 pagine del World Book che mi è arrivato Ma chi c'ha, voglio, chi voglio c'ha i denti in cerpane, ho sempre detto. Vedi. No, c'ho anche due figli, quindi non è che posso mettermi a fa bordello mentre loro dormono. Chi c'ha i figli non c'ha il allora, pane. Esatto. Perché lo finiscono loro. Esatto, perché glielo devi dare allora, a loro. Esatto. Stavo dicendo, no, ogni volta, siccome non è la prima volta che viene fuori sta discussione su serve, non serve, bello, non bello, chi se ne fotte. Cioè, io e Alex lavoriamo in ambiti affini su fronti diversi. Io faccio il sistemista, mi occupo di un tipo particolare di informatica, lui di un'altra. No, noi nella nostra professione cioè abbiamo degli sviluppatori di linguaggi obsoleti, tipo, cazzo ne so, il COBOL, queste... di Fortran, questa roba ormai assolutamente inimpiegabile, che vengono tenuti sotto impiegabile sotto un sale, cazzo, il COBOL tanto... è ancora la base di tanti applicativi in campo assicurativo e bancario, quindi assolutamente, quindi... Difatti stanno cercando di levarlo avanti al cazzo perché i programmatori esperti in COBOL stanno morendo. Esatto. Stanno veramente morendo. No, stanno morendo proprio morendo. Fisicamente, sì, è vero, è vero. Esatto, cioè hanno un'età e quindi vanno sostituiti. Quindi a me questa, ogni volta che sentiamo questa cosa mi viene in mente questa situazione qui, no? Di gente di 70 anni che ogni tanto viene richiamata, guarda ce ne si è rotto questo, con una che differenza, questi un'utilità ce l'hanno, la S400. Vabbè, vai, no, è bello che sono, cioè, se ci avete a che fare sono anche belli sprint, sono portati, scrivono i programmi su carta poi a terminare, cioè, a me me ne sono morti sono due quest'anno, studiato. Quindi ragazzi, cioè, dico solo questo, insomma, programmatori, cioè, vedi un po' tu. Però, dicendo, in questo caso specifico un'utilità sociale ce l'hanno nell'ambito dello sviluppo, cioè io ci riesco a vedere l'interesse, tipo è stata la macchina della mia vita, quella su cui ho imparato a programmare, voglio fare qualcosa di nuovo, bellissimo. Sei un appassionato, ti giocherai quel gioco sull'emulatore o su un C64 vero, sono contento. Però da qui a dire che mi fa impazzire. No, vabbè. Devo dire che io ho la curiosità di prendere in mano comunque le mie conoscenze. Io per esempio adesso ho iniziato col Python e devo dire che quello che ho imparato sul Basic e il Commodore 64 mi è stato... Sì. No, cioè, come se fossero riaccese delle lampadine. Cioè, se io mi trovavo di fronte al 64 il cursore acceso, avrei fatto solo 10 print, capito? Cioè, nel senso... E invece, quelle informazioni sono ancora dentro di me. Però sì, è un discorso sul quale magari ci torneremo, magari ci facciamo proprio una puntata. Magari Sant'Agostino contro Alex Raccuia, dai, mamma mia, sto già carico. Secondo me alla fine saremmo anche abbastanza d'accordo io e Santa su sta cosa. Impossibile, sì. Impossibile. Secondo me Sant'Agostino non è mai d'accordo, secondo quello che tu dici. No, non è vero, no, sto scherzando chiaramente. Comunque, l'avvocato del diavolo. Ringrazio tutti quanti per questo primissimo appuntamento, questa puntata zero, per la pazienza di averci ascoltato. Vi ricordo il nostro gruppo Telegram, che è telegram.me/videoludica, il gruppo Facebook, che è facebook.com/groups/videoludica.it. Quindi scrivetelo, poi queste cose le metteremo nelle note dell'episodio. Chiaramente, se volete fare volete abbonarvi insomma su Patreon e sostenere Runtime Radio, ricordatevi patreon.com/runtimeradio, oppure andate su www.runtimeradio.it e cliccate su anche io Radio Runtime anch'io, che insomma è il modo per capire come si fanno le donazioni. Se ne volete fare una tantum, perché come al solito Patreon vi fa un po' schifo, un po' barocco, un po' non si capisce come funziona, se ruba i soldi, andate su paypal.me/runtimeradio e mettete, che ne so, 20 euro 30 euro, giusto per comprare Cyberpunk, non è mica mia. Scherzo naturalmente. E ringrazio e saluto Alex Raccuglia. E io ringrazio e saluto Simone Pizzi, Carmine Puccio Console e tutti i nostri teleascoltatori. Bene. E ovviamente Alex insieme a me realizza questo podcast e realizza ovviamente gli assets grafici, e ringrazio e saluto ovviamente Carmine Puccio Console, che non sarà, non parlerà solo di libri, però insomma non parleremo solo dei videogiochi, si è capito questo, insomma. E meno male, infatti, perché sono belli i videogiochi, però dopo un po', no? Vabbè. Ok, grazie a tutti. Vabbè, ci vediamo ragazzi la prossima settimana, venerdì prossimo, ore 21, live, con una puntata tutta dedicata all'interpretazione nel mondo dei videogiochi, non solo dei videogiochi, anche dei giochi di ruolo, dai giochi di ruolo ai videogiochi. che sarà una puntata interessante. Ospiti importanti anche, quindi insomma preparatevi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.